i 189 comuni della provincia di Milano sono comuni virtuosi. Questo avviene da una decina d'anni, nel periodo in cui, nel 1997, è esistita l'emergenza rifiuti in provincia di Milano. Come si è dato impulso a questi miglioramenti? Diciamo che la provincia, già un decennio fa, ha dato un impulso notevole ai sistemi di raccolta differenziata e ha affrontato, anche dotandosi dell'impiantistica necessaria, sistemi di smaltimento corretti. La città di Milano viene premiata anche per il trasporto pubblico. Eppure, come rivela un recentissimo rapporto della provincia, l'impronta ecologica del traffico, in particolare privato, sulla città e sulla sua area è profondissima tutt'oggi. E allora che fare? Le linee metropolitane dovrebbero, ed è questa la nostra proposta e con questo stiamo discutendo col Ministero delle Infrastrutture a Roma, è riuscire a servire i cittadini dell'area metropolitana milanese, non solo e soltanto i cittadini di Milano.